Il leone, il lupo e la volpe, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Fatto vecchio, decrepito ed asmatico, gottoso ed arrembato, un leone cercava il gran rimedio di migliorare il suo malfermo stato. È fare un torto ai grandi il dire o il credere che v'abbia cosa a lor forse impossibile. Ed anche questa volta, al primo annunzio, da tutti i quattro punti dello Stato, ecco arrivare i medici, empirici, specifici, flebotomi, anatomici, a consultarsi intorno all'ammalato. I cortigiani vanno tutti in vista, tranne la volpe, che si tenne comoda nella sua tana. Intanto al capezzale del grande infermo, il lupo, uno degli assidui al corteggiar, si giova del momento per dirne tutto il male che può inventare un lupo di talento. Avria voluto il re che la meschina nella sua tana fosse affumicata, ma la volle sentir, e una mattina la volpe già avvisata a presentarsi s'inchina e «Sire», dice, «è ingiusto il sostenere che per disprezzo abbia tardato un dì a fare mio dovere. Se non venni con gli altri al primo maggio, egli è che ho fatto un pio pellegrinaggio per implorar da quei che sol la dà ogni salute a vostra maestà». Strada facendo, a molti dotti medici ho parlato di voi, del gran languore che mai non cessa, e m'hanno detto i pratici che viene da mancanza di calore, effetto dell'età. Ma non si potria provare un buon rimedio squartando un lupo vivo, il vero io narro, e poi la pelle ancor fumante subito mettersi indosso a guisa di tabarro. Piacque il consiglio al re che il conte lupo tosto uccidere fe, a colazione prima lo mangiò e nella pelle poi si imbacuccò. Signori cortigiani, io dico a voi che in danno altrui di migliorar la sorte cercate, seminando e odio e guai dei pari vostri, il mar si rende poi a quattro doppi. In corte non si perdona mai. Fine della favola, il leone, il lupo e la volpe. Questa registrazione è di dominio pubblico.